Arresto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Arresto Radio Convento, lo spazio per raccontarsi, per raccontare, soprattutto lo spazio per conoscere meglio. Solitamente diciamo intervistare, ma intervistare è un termine brutto, perché ci piace veramente entrare nelle vite dei nostri ospiti, di coloro che scelgono di passare la serata con noi, e raccontare qualcosa di più, conoscere qualcosa di più di loro e fare in modo di far uscire le loro passioni, i loro interessi, le cose che veramente stanno loro a cuore. Abbiamo due fantastiche vorace, direi, ragazze. Vorace è un appellativo, un aggettivo che si caratterizza molto per il sud Italia, infatti entrambe vengono dal sud, ma arrivate qui nella zona del Garda per lavoro, tra l'altro più o meno nello stesso ambito. Adesso vi spieghiamo tutto, vai, cominciamo a conoscervi, vai con le presentazioni. Ciao a tutti, io mi chiamo Maria. Ciao a tutti, sono Lara. Ok, da dove venite, ragazze, quindi? Allora, io sono di Lucera, provincia di Foggia. Sono di Napoli centro, però abito a Desenzano. Anche lei, infatti, anche trasferita. Io, sì, Desenzanino. Da quanti anni vi siete trasferite qui? Tantissimi anni. 2013. 2013, quindi 10, 6, 7 anni più o meno, insomma, una buona cifra di tempo. Per lavoro o per scelta? Cioè, avete trovato il lavoro che eravate già qui o vi siete spostate appunto per lavoro? Io per lavoro. Io ho destino. Mandato curriculum, dopo 3 giorni mi hanno chiamato. Che eri già qui o eri ancora giù però? No, io ero in Puglia, avevo terminato la stagione. Ah, ok, eri ancora giù e quindi, cioè nel senso, per esigenza nel tuo caso, esatto. Perché non potevi chiaramente gestire la cosa da lontano. E come mai entrambe avete scelto, non so se per scelta, il Lago di Garda o perché vi è capitato questo, o avevate proprio intenzione di questa zona? Amando il mare. Venite da lì, insomma. Qualcosa che assomiglia al mare. Sì, sì. Beh, perché giù come va? Il turismo, l'hotellerie, insomma, non funziona. No, il turismo va, il problema è il lavoro. Sì, sì, dico il lavoro legato al turismo. Sì, la stagione è più corta. La stagione è più corta, esatto. certo. Non abbiamo specificato ancora cosa fate, quindi raccontatecelo pure. Allora, io lavoro in un hotel come cameriere piani. Io invece ufficio booking e ricevimento per un hotel 4 stelle. Ok, quindi come dicevamo prima, appunto, entrambe nello stesso ambito. Vi siete conosciute per un discorso lavorativo o per caso? Come è andata? No, noi ci siamo conosciute per caso in un locale latino. Perché vogliamo entrambe latino. Perché appunto, perché capite bene che i casi della vita, come dire, due meridionali, entrambe spostate al lago, che lavorano entrambe in hotel. Diciamo che se non dovevate conoscervi per destino, poco ci manca, perché esatto, insomma, praticamente esatto. Non dico gemelle separate alla nascita, però insomma vi assomigliate molto, no? Davvero? È vero. Per qualche motivo andato delle sorelle stasera, quindi Però dico, dovevate vedervi in qualche modo, perché insomma avete entrambe lo stesso percorso lavorativo, avete fatto la stessa scelta di vita, più o meno non da zone simili chiaramente, però da possibilità che erano simili, per cui dovevate incontrarvi, no? Diciamo che io ho cambiato 10-11 città, perché ho vissuto anche all'estero, ho vissuto 2 anni a Londra e anche in Francia, quindi è stato veramente il destino che mi ha portato qui, non ho scelto il Lago di Garda a caso, ecco. Ok, ma quindi siete sempre state più o meno nell'ambito turistico, io nell'ambito dei servizi di questo genere, cameriera, da sempre? Comunque sul lago e tutto, sì. Allora vi faccio la domanda delle domande quasi da Marzullo. Sì. Che differenza vedete tra il turismo del Lago di Garda e il turismo meridionale? Magari al di là del panorama, che di cui è proprio nella gestione, nella tipologia di cliente che viene, nella tipologia di cliente che esigenze ha, che scelte fa, che cosa cerca, insomma. Al sud sono più calorosi. Ok. Il calore del sud, sono un po' di parte, però il calore del sud non c'è da nessuna parte. Cioè, quindi anche il turista che viene contagiato, insomma, da questo calore. È impossibile non essere contagiati dal calore del sud. Ok. Concordo più o meno. Io penso che comunque il lago è frequentato prevalentemente da tedeschi e olandesi. Esatto. E non c'è tantissima differenza con altri tipi di clienti, solo che loro prediligono il lago perché amano questa zona d'Italia. Ecco, a differenza magari di noi italiani che andiamo al mare. Certo. Ma sentivo comunque dire che, come dire, ci sono tantissimi turisti stranieri che fanno proprio loro stessi la stagione intera quasi, no? Cioè passano proprio dei mesi, non le classiche due settimane che noi abbiamo, sì, passano proprio carina. Dei mesi qua o in appartamento o in, appunto, in strutture come le vostre. Beh, dove lavoro cioè rimane io... ancora questa usanza? Magari dove lavoro io non proprio, perché comunque è un hotel a 4 stelle, quindi è abbastanza caro, si parla di 250 euro a notte se arriva ad agosto, quindi fermarsi tutta l'estate. Sì, non per tutti, no. Non per tutti. Però magari chi fa campeggio, chi affitta un appartamento, residence, sì, si fermano più del dovuto. Sì, era per dire che non è, insomma, non è una tendenza di 5-6 anni fa, è rimasta ancora oggi, insomma, nonostante. Il lago offre diverse soluzioni, ecco. Dipende quanto una persona vuole spendere. Sì, beh, certo, assolutamente, assolutamente. E voi come vi siete avvicinate invece a questo lavoro, insomma, a questo ambito più o meno di lavoro? Già da giovani vi piaceva o i casi anche lì della vita vi hanno portato a? Io mi sono laureata in economia del turismo presso l'Università e quindi, di Bologna. Siamo lì, siamo lì. Ho fatto 3 anni all'estero e ho studiato prevalentemente per lavorare nel campo alberghiero. Ok. E quindi poi ho girato un po' per vedere, anche per conoscere nuove realtà dal sud al nord Italia. Sì, sì, però ti sei sempre mossa lì, insomma, lì intorno. Sì. Ok? A me invece mi incuriosiva il lago di Garda e quindi trovare un hotel. Sì, però dico. Ah, ok, no, però dico la. Il primo lavoro che ho fatto è cameriera, quindi comunque. Quindi sei rimasta sempre lì, sempre lì, ok. Sempre ancorata lì. Ok, velocemente, quali sono secondo voi. Qual è, secondo voi, pardon, la peculiarità del vostro ruolo? Cioè, per riuscire bene nel vostro ruolo bisogna fare, puntini, puntini? Bisogna vendere. Bisogna vendere, essere comunque spigliata, outgoing e comunicativa. Persuasiva. Persuasiva. Molto persuasiva, in certo sì? Caso, sì? Addirittura? Sì, bisogna saper vendere il prodotto. Certo, certo. Che fare, insomma. Trovate difficoltà in questo o vi appartiene questa indole? Assolutamente no, perché no. Noi del sud abbiamo la vendita. Siamo nel calienti. Sangue. Infatti dico quello, vi appartiene, calienti. Ce l'avete quindi nel DNA, non è una cosa, esatto, che avete dovuto, tra virgolette, imparare, anche se no, si impara sempre, si impara sempre, sì, queste cose. Ci nasce. Ah sì sì sì, no beh, quel qualcosa in più ce l'ha, appunto, che ci nasce, poi studiando, esatto, si arriva a raggiungere tante cose, ma la differenza la fa appunto chi ce l'ha addosso. Va bene, volete salutare qualcuno, volete dire qualcosa? Sì, dai, io saluto, scusate, tutti i miei amici di Desenzano, i miei colleghi, e magari se mi ascolta qualche amico e amica dalla Puglia, è difficile però. Eh beh, chi lo sa, chi lo saluti sa. Saluti a tutti. Io saluto una persona che ho conosciuto 2 sere fa e mi ha colpito molto. Se grazie, però non dovevi dirlo a tutti, però doveva rimanere una cosa tra noi. Ah, visto okay. Che insomma, so che mi fai tanti complimenti, però insomma potevi un attimino lasciarla un po' più intima tra noi, questa perfetto. Cosa. Vabbè, insomma, ormai l'hai detta ai microfoni e ormai l'abbiamo ormai svelata. Ormai è andata, volevamo tenere ancora qualche settimana questo segreto. Insomma, visto che ci siamo innamorati da poco e Mucho. Ci stiamo ancora conoscendo. Sei però. Stato gentilissimo. No, grazie. Gentilissime grazie voi. Mille a te. Allora, grazie mille, ragazzi. Speriamo a questo punto di vedervi presto, certo, nuovamente. Qui sempre da noi. Quel convento. Dai. Quel convento di Nonato. E facciamo festa insieme. Esatto. Grazie ancora. Grazie ciao, mille. A presto. Ciao. Ciao, grazie. State ascoltando Ristoradio Convento.